Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Televisione, sono andata a cliccare per vedere voi due come siete, brutti, bruttini, sì, veramente. David, si è avverato quello che avevo previsto io, non c'è niente da fare. Hai visto quello che è successo a Napoli davanti al tribunale, ragazzi? Come no? Miei foto bibliche da cinema, da film, una roba ridicola, solo in Italia, solo in Italia, perché non riescono a organizzare le cose in però. Particolare non... direi, aggiungerei solo a Napoli, in alcuni casi solo a Napoli, considerazione non sbagliata. Allora, cosa è successo, amici della Zanzara, amici della radio, voi che ci sentite dal nord al sud, compresa Napoli, cosa è accaduto davanti al tribunale? Che si sono formate file lunghissime, chissà perché, poi Napoli più lunghe che in altri posti, ma perché? Cioè, lo capisci perché? Perché evidentemente avevano fatto dei controlli, forse, credo, più ferrei. Controlli davanti al tribunale dopo la vicenda di quello che ha ammazzato tre persone a Milano, che a un certo punto si sono completamente squagliati. Completamente squadra, perché alcuni avvocati, un gruppo di avvocati, non solo avvocati, hanno sfondato tutto, hanno sfondato, stufi di aspettare, hanno sfondato, e adesso si entra in tribunale praticamente così, come prima. Dai su, ragazzi. Sono le cose all'italiana maniera, fino a ieri non hanno controllato e oggi questo controllo esagerato e assurdo. La situazione è questa, che in Italia se si fanno i controlli si blocca tutto, questa è la dimostrazione. Scusa, che te da dire, dopo rubare smetti di porti firca, no, stiamo qua, è a prova. Danno sempre il massimo a Napoli comunque, ragazzi, danno sempre il massimo, danno sempre il massimo. Allora, io però sono d'accordo con questi qua, Ma non avevo dubbi. Io sono d'accordo con questi. E come dire, le semafore rosse, si ferma la coda. No, aspetta. Si muove la coda. No. Hanno ragione loro, perché uno non può bloccare il tribunale di Napoli per i controlli. Non è mai successa una mazza in 50 anni. Perché devi bloccare tutto? A Milano uno ha sparato, si è portato una pistola dentro, si indaghi come ha portato la pistola dentro, dove sono le falle della sicurezza, ma non rompete i coglioni alla gente che deve andare in tribunale e non può perdere tutta la mattinata per fare file incredibili. Una cosa sola voglio chiedere: perché a Napoli sono più lunghe che in altri posti queste file davanti al tribunale? Perché? Perché? Perché? Allora, si parla molto di un post di un poliziotto, si chiama Fabio Tortosa, l'ho sentito a lungo. Fabio Tortura? No, fermo lì, 1 minuto e 40 secondi, adesso non voglio fare come Capanna. Fabio Tortosa, il quale non dice viva la tortura. I giornali online stanno scrivendo delle cose non corrette. Io ci ho parlato per 40 minuti con questa persona oggi. 10, 100, 1000 Diaz, post infame di un agente coinvolto. Questo è il titolo, per esempio, dell'Huffington Post. Altri titolano in un altro modo, dicendo: dell'Huffington ha, diciamo, virgolettato, aspetta, sì, parte, certo, del suo post su Facebook. Uno degli agenti che partecipò al pestaggio, lo rifarei subito, noi torturatori con le palle. È stato bloccato anche il suo Facebook. che inizia così: io sono uno degli 80 del settimo nucleo, io ero quella notte alla Diaz, io ci rientrerei mille e mille volte. Non mi risulta nemmeno dai post successivi che ha fatto che abbia fatto l'elogio della tortura. L'elogio della tortura. Rivendica di essere entrata alla scuola Diaz, rivendica quello che ha fatto, ma non dice viva la tortura. Attenzione, calma, calma, calma. Siamo qui, 800 24 00 24. La questione Rom a Padova, caro Parenzo, la questione Rom a Padova. Cosa vuole fare l'amico Bitonci? Che c'è? Che c'è? Frigo, frigo, frigo. Solo hai detto due parole chiave: Bitonci e Rom. Allora, ti dico subito quello che vuole fare Bitonci. Sì, che Dio lo abbia in gloria. Che Dio lo abbia in gloria, signor stai Bitonci. Stai costruendo un pogrom culturale sui Rom. Aspetta, aspetta, no! Un pogrom stai facendo. Vuole culturale. Applicare esattamente le direttive del suo capo, cioè Salvini. Ha dato un ultimatum ai campi Rom, credo 11, 10, totalmente illegali, campi Rom illegali, e ha detto: se non vi spostate, se non me ne date entro, non mi ricordo quanto, un mese, 20 giorni, dove devono andare? Due mesi, non lo so, si cerchino la casa come tutti, cerchino andare? La casa come l'hai cercata tu, come l'ho cercata fa? Io, ma scusa, ma te la casa te l'ha procurata cosa? Qualcuno l'hai cercata? Vabbè, no, scusa, era io. Di un'altra persona, però ma l'ho cercata io, quando ero in affitto l'hai a via Nomentana. Ma perché numero dei signori Rom 63? Non la possono cercare anche loro una casa in affitto? Perché? No, perché? Ma scusami un momento, perché? Però un momento. Ma è una cosa incredibile. Ma guarda, siete della gente incredibile. Ma perché incredibile? Perché? Tu Bitonci, siete incredibili, guarda. Ti faccio sentire un mitico scontro tra Freccero sì, e uno della Lega, Fedriga della Lega. Prima Freccero che dice che Salvini è nazista. Senti, Salvini spiega molto bene che quando non si è lucidi si trova in qualche modo la soluzione di un conflitto sociale sempre su un povero capro espiatorio. Questo proprio è tipico del fascismo, del nazismo. Il nazismo, e lo so, ridi, no, ma qui guarda, strano, mi vedrai, che non ce ne stasera sei. Sono veramente non avevo ancora sentito nazismo, fascismo, appunto, ma lo sentirai sono tutta abituato, la sera, certo. Perché sei un fascista, certo, lo sentirai tutta la sera, perfetto, non vai. Solo, ma ti prego, perché voi avete fatto un'alleanza con Casa Pound, certo, è una vergogna, vergogna, vergogna. Io da piccolo mi dicevo che rubavo dei bambini, mi hanno rubato in casa e gli hanno fatto la cacca anche in casa, cioè i Rom. Quindi puoi capire se io sono così per i Rom. Ma è chiaro che c'è una educazione, non posso pensare di risolvere la crisi mondiale attaccando i Rom. Sei un coglione, sei un fascista, hai capito? Fascista, fascista, fascista. È bello. Senza offendere, Freccero. Ma che vuol dire senza offendere, Freccero? No, perché gli ha dato giustamente vabbè, del coglione e del fascista. Perché tu pensi di risolvere, ma perché io non capisco col perché metodo Salvini, ma io la non politica delle ruspe si chiama. Ma io non quella capisco perché se uno ruspe dappertutto, no, ma io non capisco, Parenzo, perché se uno sta sui coglioni gli mandi no, la ruspa. No, ma io non capisco una cosa. Siete perché incredibili. No, ma facciamo le magliette di Salvini ruspe. Vabbè, ma quello già ne ha troppe di magliette. Le felpe, lascia perdere le felpe, le magliette già le fa lui. Perché la società è complessa. No, ma lascia noi sì, ma con la scusa della società complessa non si fa mai una mazza, questo ma è il punto, è vero, non si risolve mai nulla. Perché chi nulla, voleva risolvere nulla si è arrubato. Ma i politici c'entra di Roma? Vabbè, hanno rubato sui Rom e fammi hanno rubato sentire, più dei fammi Rom. Fammi sentire Vittorio Feltri. Ciao Vittorio. Molto bene. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci molto qui. Bene, allora, io non bene capisco perché se uno vuole risolvere un problema, poi vediamo se lo risolve mandando via i Rom, viene definito, come ha fatto Parenzo, fascista, nazista. No, nazista io ladro, ma per altre cose forse sì, la Lega anche lei ha rubato, lo sappiamo. Cioè, no, se uno vuole semplicemente togliere dei campi Rom, togliere campi Rom e dire a questi cercatevi la casa come tutti gli italiani, viene definito in questo modo. A te pure danno del fascista perché la pensi così? Ma io non so se mi diano del fascista. Io sono convinto che ciò che sia illegale vada eliminato, esattamente come avviene per tutti i cittadini italiani, i quali se commettono un reato vengono perseguiti. Insomma, se i campi Rom sono illegali, e questo pare ormai accertato, sì, è evidente che vanno tolti. Non mi sembra di fare un ragionamento fascista, ma semmai legalitario. Tra l'altro non si capisce perché i Rom devono essere considerati cittadini diversi da noi, visto che la maggior parte di essi, peraltro, sì, sono italiani, no? No, ma infatti sono razzisti, secondo me, quelli che pensano che i Rom debbano avere un trattamento diverso dagli altri. Sì, cioè, secondo come me, tutti se tu quelli pensi che hanno bisogno di essere integrati, no, ma lo come sai, ma la le politiche della marginalità si chiamano. Ancora no? Con le politiche ma della certo, marginalità. Se tu vai a Scampia ma con che le ruspe. Scampia? Ti fanno un culo così, ma che se c'entra ti con le ruspe. Ma sono problemi diversi. Davanti a Scampia, vai lì a Scampia con le ruspe. Oddio, manda Salvini con le ruspe a Scampia. Ma che c'entra? Ora demoliamo tutto. Vi fanno un culo così a tutti voi. Ma voglio vedere. Vabbè, ma sono problemi diversi. Analizziamo una cosa. No, perché è marginalità anche quella. No, ma è benaltrismo, quello che fai tu è benaltrismo. Fai parlare Fetti un attimo. È benaltrismo, Vittorio. No, io penso che i Roma abbiano il diritto di scusate di avere una di avere una casa, è evidente, sì, basta che facciano come abbiamo fatto tutti noi, ce la siamo comperata, l'abbiamo presa in affitto, sì. Poi è evidente che non tutti hanno le possibilità, anche se molti rubano parecchio, però sì, hanno la possibilità di comprarsi, di affittare una casa, allora si mettono in lista per avere una casa popolare, esattamente come facciamo noi. Noi, insomma, i nostri, per fortuna, fanno una domanda, poi c'è una graduatoria, esatto, si sottopongono alle stesse regole che disciplinano la nostra vita. Non vedo niente di fascista in tutto questo. No, ma stupisco che qualcuno ci accusi di queste cose. Noi vogliamo soltanto che si rispetti la legalità, e cioè che anche i Rom vengano rispettati come gli altri, che vengano trattati come gli altri, esattamente come gli altri. Altro che fascismo, c'è una c'è addirittura una grandissima apertura, nessuno dice che devono essere uccisi, distrutti, ammazzati. Poi un'altra cosa, scusa, c'è un problema che qualsiasi coppia di Milano, di Brescia, di Catanzaro, se non manda i bambini a scuola anziché educarli attraverso le istituzioni normali, addestra per i furti, è evidente che quei bambini vengono sottratti subito alla famiglia, viene tolta la patria potestà ai genitori e i bambini vanno dopo un secondo, come i nostri, perché quanti bambini vengono portati via dalle assistenti sociali che fanno la pratica e poi con l'ordine del giudice vengono sottratti alla famiglia che li diseduca anziché educarli e finisce lì. Chissà perché invece c'è pieno di zingarelli che evidentemente sono minori e quindi se rubano non vengono perseguiti, ma neanche i genitori vengono colpiti da quei provvedimenti che colpiscono gli altri cittadini. Questo è paradossalmente paradossalmente sono privilegiati. Io ti arriverò a dire, Parenzo, che i Rom sono privilegiati perché hanno non pagano mai bollette, luce, gas. I campi Rom li hanno fatti i politici, ma la lascia perdere, anche responsabilità dei politici, peggio chi l'ha fatti, peggio per loro. Io non sto salvando nessuno, anche la Lega che le ha finanziati, case popolari per i Rom, ma facciano la graduatoria come gli altri, entrino in graduatoria come gli altri, perché i Rom devono essere privilegiati? Amici reazionari, tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora, siamo con Vittorio Feltri, editorialista del giornale, eccetera, eccetera, non c'è bisogno che ve lo presento, un avvocato, amico mio, un avvocato molto addentro alle cose del Tribunale di Roma, mi dice che portano via i bambini a genitori italiani per molto molto meno, meno di quello che fanno i Rom. E i Rom in questo, nella gestione dei bambini, sono assolutamente privilegiati. Lo stesso vale per gli scugnizi di Napoli, uguale. Vabbè, ma può darsi che sia uguale, ma non è detto che vada bene. La marginalità è marginalità, sia essa Rom, sia essa Bubù, sia essa della Lega, si chiama Vittorio, marginalità. Che dire, Vittorio? Cosa vuol dire marginalità? Vuol dire essere emarginati e anche auto-emarginati, perché non c'è nessun motivo per cui per cui i Rom debbano continuare a vivere come stanno vivendo anziché andare a lavorare e vivere come noi. Chi è che glielo proibisce? Nessuno. Quindi qui siamo di fronte a un fenomeno non sociale, ma a un fenomeno che sfugge anche alle nostre capacità di analisi, perché non è detto che uno debba campare rubando, questo non va bene, questo è fuori legge e quindi bisogna intervenire, altrimenti si incentiva la gente a commettere dei reati, e questo è sbagliatissimo. Senti, ma molti poi rubano... non si capisce perché Parenzo mi possa dare a me del reazionario, che ha una valenza negativa. Beh, mentre se io definisco un Roma zingaro vengo deferito all'ordine dei giornalisti, il quale mi persegue. Attenzione, insomma, anche se dici alla follia. anche se dici che i Rom rubano tanto, anche se dici che molti Rom rubano, purtroppo la realtà è questa, cioè dire che molti, non tutti evidentemente, ma molti Rom rubano, sì, significa fotografare la realtà, perché basta andare in una stazione qualsiasi per assistere a dei fenomeni che ti lasciano di stucco. Senti, ma tu affitteresti la casa affitteresti la casa a una famiglia Rom, Vittorio? Diciamo la verità. Prego? Affitteresti la casa a una famiglia Rom? Assolutamente non c'è motivo perché lui l'affitti a una famiglia che non mi dà garanzie di solvibilità. Questo voglio dire, non mi interessa che sia Roma, mi interessa che sia solvibile e che fornisca delle garanzie. Né mi metto a fare una trattativa di vendita né ad affittare, ma questo diciamo lo farei con chiunque. No, metti che ci sia una famiglia a Roma che ti dà tutte le garanzie bancarie e tutto. Ma io l'affitto, non c'è nessun problema. Poi sta. Io voglio dire, vivo a casa mia, se affitto una casa non è che poi vado a controllare se dormono in terra nella vasca da bagno, che liberale. Non mi interessa. Per precisare, ho detto che Feltri è un simpatico reazionario. Vabbè, sì, ma non c'è bisogno, hai detto che reazionario nel senso negativo. Non è. Ci sono anche dei simpatici zingari che se li definisco tali vengo deferito all'ordine, lo sai anche tu, non è che... Voglio chiedere una cosa a Feltri che riguarda la vicenda di Berlusconi. Sì. La cosa incredibile è che in Puglia, e noi abbiamo oggi raccolto una testimonianza molto importante da parte della signora Poli Bortone, che è sempre una sola, non sono due, Poli Adriana, Bortone, Adriana Poli Bortone, sono in tre, la quale ha detto che si candidi la Meloni se è tanto brava a unire il centrodestra, ma al di là di questo la questione è molto semplice. Berlusconi è la prima volta che qualcuno gli dice di no. Prima uno che si chiama Schittulli, che io penso che lo conoscano solo in Puglia, no? Il signor Schittulli, anche tu penso che non l'hai mai sentito nominare, ma nemmeno io devo dire. Non sapevo neanche chi fosse. Dopodiché anche la signora Meloni dice no, però vediamo se questo... Cioè è la prima volta che Berlusconi subisce dei no chiari e tondi, cioè è veramente finito o no? Io penso che la situazione in Forza Italia sia disperata. Ovviamente Berlusconi, che è il capo, è il primo ad essere un osservato speciale e ci stiamo rendendo conto che forse per stanchezza, forse perché è stato sottoposto siamo a cautura e forza, siamo al caffè. Lo sappiamo benissimo. Forse oltre il caffè. Purtroppo Forza Italia è stata ridotta a poca cosa e anche i sondaggi lo dicono, non è un'opinione nostra, si constata che Forza Italia si è sfarinata, questo non c'è dubbio, e fra l'altro coloro che sono iscritti e che lavorano per Forza Italia, anziché darsi da fare per rimettere insieme i cocci di un centrodestra, fanno peggio, litigano, pensano ancora di dividersi le poltrone, in realtà le poltrone non ci sono più, perché se non ci sono i voti non ci sono neanche le poltrone. Allora ho come l'impressione che ci sia una sorta di cupio di Stolvi, no? Crepi, Sansone, e lo stesso Berlusconi è preso forse da questo stato d'animo, dice ma sì, andate tutti a morire ammazzati e non se ne parli più. Credo che ci sia anche questo sentimento. Senti, ti voglio richiamare dopo per 5 minuti sulla vicenda di Barbara D'Urso, perché la tua idiosincrasia ai divorzi credo che venga confermata anche dalla vicenda di Barbara D'Urso, perché l'ex marito gli ha chiesto non so quanti mille euro al mese, quella è stata addirittura indagata perché non dai soldi al marito. Io sono dalla parte della D'Urso, dalla parte della D'Urso assolutamente in questa vicenda. È una cosa indegna la sua trasmissione. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Poi dicono che non bisogna bloccare gli scafisti all'origine, e poi dicono che sono fascisti, sono razzisti, sono violenti quelli che dicono che bisogna fermare l'arrivo dei barconi, ma bisogna fermarli sparando sui barconi senza le persone prima di partire, in Libia, in Tunisia, dove sono? 400 morti in un naufragio. Non lo so, bisogna farlo, in qualche modo bisogna farlo. Ma spiegami la dinamica. Tecnicamente è possibile farlo. Tecnicamente è possibile farlo. Cioè, no, spiega, tu vai lì, violi lo spazio aereo, violi lo spazio, lo spazio marittimo, perché come sai questo stai dicendo, no? Cioè di mandare il nostro esercito in Libia. L'esercito europeo in Libia. O l'esercito europeo che non esiste in Libia. Non lo so, quello che vuoi. E quindi bombardare i porti di Libia. I barconi, esatto. Grande operazione di intelligence, servizi segreti e quant'altro. Questa è la ricetta. Assolutamente sì. Lo dice Luttwak, non è che lo dico pure io. Lo dice il signor Luttwak. Prenditela con Luttwak. Prendila con Luttwak. Io con Luttwak condivido moltissimo. Grande esperto di servizi segreti, di geopolitica, di geostrategia, quello che ti pare. Questa mi pare una follia. Oggi un immigrato è morto, gettato agli squali. Se ti piace così, evidentemente ti piace così. Quella nave andava salvata. Ma infatti è stata salvata. Cioè in parte è stata, un'altra è stata salvata. Ci fosse ancora Mare Nostrum, forse si sarebbero ridotti i morti. Che il modo migliore per fare le navi qui è accogliere le navi. Il modo migliore per farle arrivare qui è dunque naufragare e accoglierle. Su questo non c'è dubbio, guarda. Su questo non ci sono dubbi. Allora, fa molto discutere il posto di questo poliziotto, tuttora in servizio. Ripeto, ci ho parlato e so dopo proviamo a contattarlo. Tuttora in servizio, che è stato alla caserma Diaz, e che non ha detto rifarei subito, cioè ritorturerei subito, ripicchierei subito, perché lui ufficialmente dice di non aver mai picchiato nessuno. Io vi leggo alcuni passaggi di questo post che ha scritto, di questi post che ha scritto anche nei giorni scorsi, perché è un post piuttosto duro, di una persona evidentemente molto di destra, ma questo non significa nulla. Quello che volevamo era contrapporci con forza, con giovane vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi aveva impunemente dichiarato guerra all'Italia, il mio paese, un paese che mi ha tradito ma che non tradirò. Ho i brividi. Ma no, perché i brividi? Cioè, ho i brividi! Ma andiamo, vai avanti, poi ti spiego quando vuoi, ti spiego perché. Ho i brividi io. Lui dice ci hanno inculato, così dice? Siamo stati inculati il noi poliziotti. Il motto della polizia è sub legge libertas. Stai tranquillo. Quello che loro hanno scritto dice sulla divisa. Sub legge libertas. Dice di non cioè avere... la legge sotto la legge la libertà. Dice di non aver capito? Violato nessuna legge. Non è stato condannato sub per legge. Nulla. Loro agiscono in nome dello Stato. Non è stato condannato. Non quindi è stato condannato. Lui può essere di destra, di sinistra, di centro. Ma quando indossa quella divisa. E beh, allora? Lui rappresenta lo Stato e agisce. È stato condannato? Sub legge. È stato condannato? Sub legge. Ma che c'entra? Agisce, ma è stato condannato, sì c'entra, o no? Ma c'entra. È stato condannato o no? Lo lì sai o no? Lì dentro è stato compiuto un crimine. Lì dentro è stato compiuto un crimine dentro la scuola così, Diaz. È stato compiuto un crimine. Parli per modo di dire. Così. No, parli per modo di dire. Quello che hanno detto i giudici, d'accordo. I tribunali. Vabbè, ma stai parlando su così. Quel che è avvenuto lì stai dentro. Parlando così. È stato condannato questo signore? Sai se è stato condannato? Sai se è stato condannato? Non, non è stato condannato. Benissimo. Ma ci sono. È stato condannato? Sì o no? Ha... No, non lo sai, non parlare. Quello che è avvenuto alla Diaz. Ma non che c'entra è questo? È un crimine o no? Per la legge italiana, per lo Stato il crimine italiano. Crimine è, come sai, no, delle singole persone. Delle singole persone, alcuni sono stati condannati. La punto. Responsabilità è chiaro esatto, che è personale, punto, non punto. È collettiva. Questo esatto, è evidente. Bravo, come bravo. Per i Rom, bravo, uguale, certo. Assolutamente. Come non si può dire la responsabilità penale è sempre è personale e mai collettiva. Ricordatelo per tutti, però, ricordatelo. Assolutamente. Sempre. Ricordatelo per tutti. Lo scontro tra Rom, anzi no, tra la Pavlovic, la signora Diana Pavlovic, rappresentante dell'associazione Rom. E Giordano, anzi no, la Santanchè, sentiamo. Del degno, ma interrompiamo, ma ci viene a dire anche che le scuole non funzionano. Aspetti che io finisca. Quanti loro li mandano a rubare a 5 anni, il 15% va a scuola, non frequenta, ed io devo sentirmi dire, da questa signora scicca, non è un problema, che ci inventiamo, e devo sentirmi la lezione. Continuiamo sull'istruzione, invito il ministero dell'istruzione. Non a rubare, questo è il punto. Nel suo paese dove è nata. Ma perché è così hai presuntuosa? Hai voluto venire qua, ha provato la carriera d'attrice con quelle belle gambette che ha e non ce l'ha fatta. Allora voglio ma dire, questa donna va in giro che dice di difendere il diritto delle donne e l'emancipazione delle donne. Ne voglio ma chi ma dica? Lei si emancipi, ma lo dica a me, lo dica lei si emancipi. Ma questa signora va in giro a dire che difende i diritti delle donne, l'emancipazione delle donne. Non le difendo, santo cielo, non la difendo, ma non me ne frega niente, sant'anché, non la difendo, sono felice, sono veramente felice, e voilà, and now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. La minoranza del PD insiste senza modifiche alla legge elettorale. Ci opporremo. Renzi replica dopo mesi di confronto. Adesso si decide. L'Italicum non è il Monopoli. Caso Mediaset per Berlusconi, pena estinta, interdizione cancellata, resta l'incandidabilità. Centrodestra nel caos per le regionali, dalla Puglia alla Liguria. Il governo annuncia nuove misure per la sicurezza dei tribunali. Caos a Napoli per i controlli, 5 agenti feriti. Domani Mattarella ai funerali di Milano. Tensione a largo della Libia, scafisti sparano in aria per riprendersi un barcone. Al TG3 la testimonianza del proprietario del rimorchiatore minacciato. Messaggio su Facebook di uno dei poliziotti della Diaz, lo rifarei mille volte, abbiamo avuto coraggio. C'è chi è d'accordo, ma arrivano anche durissime critiche. Sentenza della Corte di Strasburgo su Contrada, non andava condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex numero 3 del SISDE dice la mia vita distrutta. E sopralluogo del ministro Delrio sulla Palermo-Catania. Il viadotto franato sarà abbattuto, 2 anni e 30 milioni per ricostruirlo, istituita una commissione d'inchiesta. Ragazzi, c'è chi parla e chi dice che in Italia ci sono troppe armi in giro, no? Cominciano a esserci troppe armi in giro. Poi si arriva a questi paradossi. Peter Gomez, che è il direttore del Fatto Quotidiano.it, sostiene che mettere in casa delle armi, se poi litigo con mia moglie, sentite un po', Gomez. Mettere le armi in casa alle persone ti porta a situazioni tipo americane, o meglio le situazioni di Palazzo di Giustizia. Un signore impazzito che con porto d'armi entra a Palazzo di Giustizia e perché è incazzato con la vita, con i giudici, con i testimoni e li ammazza. Domani litigo con mia moglie, normalmente gli do uno schiaffo, ho una pistola in casa, corro il rischio di ammazzarla. E quello che accade, è il problema degli Stati Uniti è questo. Ma questo mi sembra un po' esagerato, mi pare francamente. Lucida l'analisi di dell'amico Gomez. Mi sembra francamente esagerato. Beh, quello che succede in voi Stati avete Uniti, paura di qualsiasi cosa. Ma voi chi? Non lo so, voi avete paura di qualsiasi cosa. Ma io vi faccio dipendere, cioè, se uno c'ha la pistola in casa, o metto un bel allarme a casa. Vabbè, tu sì, ma chi si vuole fare la pistola? Ma perché non se la può fare secondo la legge? Non capisco qual è la paura, infatti, qual è il timore. Ci sono negli Stati Uniti stanno discutendo, capisco, ma partiamo dagli Stati Uniti che mi piacciono molto. Negli Stati Uniti stanno ripensando. Da una vita che si discute, stanno ripensando chi che dipende gli stati, ma che dici? D'armi in alcuni stati, certo, stanno però ripensando ogni volta che accade un episodio di sangue, vabbè, di togliere, di ridurre, allora, il porto d'armi. Allora, siamo ancora con Vittorio Feltri, ciao Vittorio. Eccomi qua. È armato Vittorio Feltri? No, non credo che sia armato, anche se c'ha un posto, abita a Bergamo, in un posto un po' fuori mano, non penso che c'ha le armi, Vittorio, no? O sì? No, io ho invece un'arma, una pistola regolarmente posseduta e sì. Non vedo... Che calibro non è? Non vedo dove sia il problema, anche perché... le armi non sono pericolose, sono le persone che le maneggiano che possono diventare pericolose, non solo, ma segnalerei a Parenzo e a tutti quelli che la pensano come lui o come Peter Gomez, che la maggior parte dei fatti di sangue che avvengono in Italia sono, diciamo, gli assassini, chi li compie usa il coltello, e non per questo è stata abolita la vendita nelle coltellerie di vari. Ma sì, se uno vuole ammazzare, ammazza, pistola o meno pistola. Se uno vuole ammazzare la moglie, come dice Gomez. Ma sì, ma poi a Milano addirittura un extracomunitario noto ormai, Cabobo, si è sperimentato, ecco, uccidendo 3 persone con il piccone. Quindi anche il piccone, allora bisognerebbe vietare la vendita dei picconi, dei temperini, su, ragazzi, dei coltelli a serramani. Senti, ma che calibro è? Che calibro è la tua pistola? 7,65. Ma la usi mai, no? Mai, no, non ho mai avuto, per fortuna, la necessità di usarla. Ma spareresti pistola... a un ladro tu? Ah, naturalmente, se avessi un ladro in casa, prima prima, la prima cosa che farei è quella di sparargli, anche perché preferisco un brutto processo che un bel funerale. Questa è una citazione alta, lodevole. Questa è una... Senti, a proposito, ma la vicenda della D'Urso ti conferma del fatto che separarsi mai? Ma io sono contro il matrimonio proprio perché sono contro il divorzio e anche le separazioni, che sono onerose, ma non solamente per le persone, della quale non parlerò mai nella vita, però capisco perché se il coniuge debole è la moglie, io la devo pagare, se il coniuge debole è il maschio non debba essere pagato. No, questo è un ragionamento. No, è vero, cioè siccome siamo abituati a sentire, diciamo, il coniuge debole, cosiddetto debole, che poi spesso debole di non solito è la donna, di solito. Però tu dici se così è la legge, anche quando il coniuge più debole è il maschio, ha da pagare. O siamo sempre legalitari o non lo siamo mai. Su questo ha ragione. Per cui se la D'Urso è più ricca, che paghi. Se il coniuge più debole è maschio, perché non deve essere trattato come una povera donna debolissima? Cioè, non riesco a capire perché fare sempre queste differenze sessiste, come direbbe quella signora che mi pare faccia la presidente della Camera. Della Camera, sì, della Camera. No. Che discorsi sono? No, è vero, in questo caso la D'Urso cosa dice? Dice che in realtà quello si è rifatto una vita, c'ha due appartamenti, c'ha una bambina con un'altra, c'ha un lavoro, però questo lo decidono i giudici, insomma, se sì, uno... Va dal giudice, fa presente queste situazioni e credo che sarà sollevata dall'onere di versare poi 1.000 euro, che non è una cifra, credo, che la signora D'Urso non possa permettersi, visto il lavoro che fa da parecchi anni, e lo fa molto bene, con successo, e pertanto suppongo adeguatamente retribuito. Dunque si può permettere tranquillamente di pagare 10.000 euro al mese, che saranno per lei? Credo le... di sì, però se è vero che il marito invece sta benone, è proprietario di immobili, non rompesse i coglioni, allora non rompa i coglioni a questa povera donna, che povera non mi sembra proprio essere. Quello no. Grazie Vittorio, a presto, ciao. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama, La Zanzara, quello da chiudere subito, guardi, da chiudere. Allora ragazzi, andiamo subito con Ivano da Caserta, dai, 800 24 00 24, vai Ivano. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo fare un commento su Parenzo. No, per farvi capire un attimo solo, Ivano, poi vai su Parenzo, per farvi capire come sta messa l'Italia. Come fai a sapere che vuole me questo? No, ha detto su Parenzo, ha detto un commento su Parenzo, questo ha detto. Allora, per farvi capire come sta messa l'Italia, è stato pronosticato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del Rio oggi in Sicilia, che quel viadotto che si è inclinato sull'A19 dovrà essere riparato in entrambe le carreggiate, cioè l'autostrada dovrà essere messa a posto in entrambe le carreggiate. Ci vorranno dai 18 ai 24 mesi, cioè la Sicilia resterà spaccata a metà, poi ci sarà una commissione d'inchiesta, naturalmente, chissà che risultato darà, resterà spaccata per quasi due anni, no? Lo sai perché? Perché cioè... tutta quella zona, sì, bastava leggere alcuni commenti oggi, poi domani, ha un dissesto idrogeologico pazzesco, per cui si rimpallano pure le responsabilità. L'ANAS dice non era competenza nostra verificare lo smottamento del terreno, la protezione civile dice no, era vostra la manutenzione del terreno. Cioè questa è l'Italia, questa roba qui è, quindi ci vogliono 18 mesi perché prima devono fare... 18, forse, perché devono prima risistemare, mettere le sonde, sistemare il terreno e dopo riedificare, questo è il problema di quella terra. Ivano, Caserta, vai. Ivano, sì, buonasera, volevo fare un commento, volevo chiedere anche a Parenzo di spiegare il paragone che ha fatto prima tra i figli dei Rom e gli scugnizi napoletani. non ho capito. No, no, no, ma guardi, è a prova di stupido, nel senso che non che lei lo sia. No, gli hai dato dello stupido, gli hai dato. Ho detto non che lei lo sia, è a prova di stupido, ce lo capisce chiunque. Che lui non l'ha capito. Molto, sì, che l'ha capito, solo che giustamente voleva come battagliare con me su questo. Io ho detto semplicemente che dove c'è il degrado, siano essi gli scugnizzi che vivono nei quartieri degradati di Palermo e che vanno a rubacchiare nelle metropolitane o quanta, o che non vanno a scuola in giro per ma la guarda che se li pizzica la giustizia e li trovi se uguale ai bambini rom, cioè non c'è differenza, la legge vale per tutti. Ma chi ha detto? Solo che ma qui i privilegiati sono i rom, è diverso. Sì, solo che Salvini, il vostro amico Salvini, ma che amico vostro, Salvini, ma che tuo, c'entra? Ma tuo di Feltri, il vostro amico ma Salvini, ma che amico? Io non c'ho non usa amico. Lo stesso linguaggio nei confronti della illegalità dilagante, no? Che per c'è una ad vita esempio a fatto. Scampia, ma figuriamoci su questo, ma non me lo dici. Ma sì, ma non è che un giorno sia l'altro pure dice buttate giù Scampia. Vabbè, buttate ma adesso ma sarà Salvini o l'illegalità? No, è il degrado che riguarda qualsiasi metropoli. Ma che vuol dire il degrado? Ma non è una cosa zone, il degrado, il degrado, fai sentire Ivano, esiste il degrado, il degrado, la marginalità, la povertà, Ivano, questa roba qui esiste. Dimmi. Chiedo scusa a Parenzo. No, forse il paragone è a prova di stupido, perché a me sembra una gran cazzata, infatti. Tant'è vero che... Sì, differenza... come stai parlando, Ivano? Come stai parlando? La con differenza... che mezzi stai parlando? Scusami, all'auricolare, al viva voce? Cellulare, senza auricolare, senza viva voce. Vabbè, allora? In quanto il paragone non regge, in quanto io faccio un esempio personale. Mi sono appena trasferito in campagna per motivi di lavoro. Vedo anche come dire, nel degrado e nella difficoltà in cui si trovano alcune parti della campagna che la gente si fa un mazzo così per far crescere il appunto in maniera decorosa, al contrario di quello che vedo in alcuni va fatta la stessa cosa rom. Nei campi rom va incentivata la legalità. Io credo, esatto. Scusa, finisco, penso mi lascia finire cortesemente. Vai, forza, vai. Allora, giusto, io penso con lei. Io penso che Cruciani che come dire ha un suo stile abbastanza forte, però insomma abbastanza carismatico, tra molte cose che dice sono spunti interessanti, si tenga Parenzo per fare il paragone col figlio scemo, diciamo. Penso che, in che Parenzo senso? Io non difendo nessuno, che vuol dire difendo? Superficiale e qualunquista, diciamo. Vabbè, questa è la sua opinione. Grazie. No, no, no, vabbè, chiaramente è la mia opinione. Grazie Ivano. Luciana, sì, Padova, vai. Luciana. Va benissimo. Sto qua. Dimmi. Stavo facendo gli arancini. Ascolta qua. Dimmi. Allora, io sono quella, sai, che ho una pistola, no? Cucina, ah, Lucianina, Lucianina mia. La nonna armata. Sì, l'altra sera ho sentito che hai mandato la replica e l'ho ascoltata un'altra volta. La sì. Nonnina col fucile. Lucianina, come stai? Come stai? Bene, bene, grazie. Allora... Ecco, ma io tutte le sere avrei da intervenire su certe cose. Intervieni, cazzo, no? Ma se non mi mettete in linea mi tocca aspettare ore e ore. Vabbè, ascolta. Che mi dici, Luciana? Come la pistola, fare, la pistola è calda nonnina. Stasera? Com'è la pistola? Ah, io sono qui che aspetto. Col fucile, Col fucile. Certo. Ma com'è sto fucile, scusa? Guarda, mi sono comprata anche una pistola adesso. Ma adesso, scusa, portameli vicino al microfono, pistola che e fucile. Fammi sentire il ticchettio della pistola o del fucile vicino al microfono. Vuoi sentire uno sparo? Fammi sentire uno sparo, dai Luciana, spara. Guarda che però va in tilt tutto la... Ma che c'è? No, frega? Va in galera più che altro, no in tilt. Ma che perché galera? Uno si mette a sparare così? Luciana! Lucianina, mentre stavi facendo sti cazzi di arancini, spara per aspetta, la casa. Aspetta, fermo, ma Stai tranquilla. A proposito, dimmi, scusa, è Parenzo, è quello che canta il cioccolato? Il cioccolato no, ma quello era il signor Coso, com'era? Il signor Malgioglio. Ah, credevo fosse Parenzo perché avevo pensato Parenzo, che poteva andare allo zecchino d'oro. Gelato al cioccolato, ecco. Dolce o po' salato, sì, gelato al cioccolato. Che gli ho prenotato la quota al galloppatoio vicino a casa mia. Grazie, nonnina. Vabbè, fammi sentire il sofaro, vai, tira fuori sto fucile, dai. Allora, dunque, volevo dire. No, ma tira fuori il fucile alla pistola, che me frega di quello che volevi dire? E dopo no, me lo dici. No, non ti ho raccontato tutta com'è andata quella volta del furto che sono andata a Campo Rom, siccome adesso è d'attualità. Sì. E io ti volevo dire che mi sono dimenticata poi di dirtelo. Che mi hai detto? Che quando sono arrivata a casa, sì, ho sentito un odore strano, no? Sì. Un odore molto intenso, sporco, sì, di... E ho trovato, diceva ieri sera Freccero, sì, la cacca dappertutto. Hai trovato la merda dappertutto, ti hanno cagato, esatto, ti hanno cagato in casa. In poi ti dirò di più, che queste, sì, dovevano essere delle ragazze, sì, non ragazzi, ragazze, sì, 13-14 perché? Anni, che ne si sai? Sono cambiati, si sono messi la biancheria pulita di mia figlia, le mutandine, reggiseni, quella roba là, che aveva 13-14 anni. Sì. Quindi erano ragazze. Poi, tra l'altro, li ho visti. Sì. Quando sono scesa subito. Li tipo ho visti peggio del Poirot, sei. Sì. E il poliziotto, la poliziotta, anzi, sì, quella dove sono andata poi a parlare, eccetera, che è quella che fa la perquisizione personale, no? Sì. Pronto? Che ha fatto? Sì, ti sento, Lucia, dai. Pronto? Sì, ti sento, allora? Luciana! Che cazzo, neanche, Alessandro, non so Firenze, non so dai. Neanche telefonare. Mo dopo lo richiamiamo, dai, Alessandro. Se, se sa sparare come telefonare, siamo rovinati. Dai, Alessandro, vai. Dimmi. Sì, Giuseppe, allora ti volevo dire, questo problema di Alfano ora che ha detto ai prefetti di trovare questi 6.000, 8.000 posti letto, come crea un grossissimo paese, un problema in questi paesini, di, specialmente di montagna, dove vanno questi immigrati che sono baldi giovani. Sì. E questi mariti si sono tutti arrabbiati e sono andati a parlare con il sindaco perché gli scopano le mogli e le figlie. Vabbè, adesso non sarà mica quello il problema principale, dai, su. È cioè un problema molto. Ma che ne sai tu? Che ne sai tu? Io ho casa in un paese di montagna, in provincia di Pistoia, dove addirittura il prete è andato a brontolare con il sindaco perché alla messa non vengono più le donne e le figlie. Vabbè, dai, Alessandro, stai esagerando. Ma fammi un esempio concreto, parlami di una cosa. Tu dici che la preoccupazione in alcuni paesi è che questi immigrati che vengono portati lì e devono essere accolti, se fanno le mogli e se fanno le donne. E vabbè, ok, ma pure le donne ci stanno, però. Scusa, non è che le stuprano, non è che le violentano. In tutti questi discorsi che sono così seri, un po' di sono argomenti attenti. Vabbè, però approfondirò perché non so se sia vera questa cosa. È vero, è vero, te lo dico io. Vabbè, posso ciao. Fare anche il nome. Ma dimmi il nome del paese. Dov'è che... No. Ma che no, no, no. Ma che significa? È venuto anche sul giornale. Ma non ci credo. Dopo vado a verificare. Ciao. Vai, ciao. Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. Attento al GDC, sai? Allora, Luciana, prendi un po' questo fucile o questa pistola, Luciana. Allora, guarda, io devo prendere degli spessori di polistirolo. Perché se sparo, dove sparo? Sul mobile, scusa, sai? No, ma vai a prenderli questi spessori, vai. E li devo preparare? Vabbè, ho capito, dai, ma spara ma da qualche si mette parte. A sparare in casa. Domani sera mi chiami, io mi trovo già preparata con tutto il multispessore. Vabbè, allora vai a comprare oggi il multispessore, mi raccomando. Perché però non li ho adesso, certo. No. Basta che tu mi chiami, ascolta, volevo dire. Ma lei spara come telefona? Ma stai tranquillo. Allora, no, ma che tranquillo? Non sono mica tranquillo io. No, ma no, non mi raccontare balle. Cioè lei sa sparare domani, come sa telefonare? Domani voglio che spari, domani voglio che spari. Certo, dille a Parenzo che la pianti, che vada a fare il fantino, quello è il suo lavoro. Come il fantino? Che vuol dire il fantino? Il fantino, no, che vada a cavallo a fare il fantino. È un modo non di dire Veneto, proprio lo spiego. Che vuol dire? Se fare vogliono bassi, fai i fantini. Lui ma che vuol dire il Veneto? Che vuol siccome dire? Lei dice, la signora che, evidentemente mi ha visto in televisione, sa che non sono altissimo. Ah, allora lei dice ma con quelle occhiaie, ma quante te ne fai di quelle cose lì? La ma signora che tante seghe dici, tante seghe. La garbata nonnina col fucile che domani sparerà alla Zanzara. Ci auguriamo che lo faccia meglio di come telefona, perché siccome non sa neanche telefonare, figuriamoci cosa combina con un fucile in mano la nonnina. No, guarda, quindi che io nella mia vita ho sempre condotto una vita molto retta e sono stimata molto da retta, tutti. Sì. Passami Cruciani. Ecco, mi sono qui, passami, sto sempre qua. Volevo dirti che quando sono andata. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, Lucia. Vabbè. Segreteria telefonica. Allora, quando sei andata dalla poliziotta dopo il furto che hai subito in casa, Luciana? No, non c'è più. Anna da Siena, vai Anna. Vai, sì, buonasera. Dimmi. E voglio dire che ho scoperto di essere fascista. Perché? Non lo ero, perché sono pienamente d'accordo con Salvini riguardo ai Rom. Perché secondo me questi ci fregano due volte. In che senso? Perché che lo Stato io pago le tasse regolarmente, ho 68 anni e quelle tasse li paga acqua, luce e gas, no? Oppure ci aumenta il costo di questi, poi stiamo andando sempre lì. E poi ci fregano perché io frequento Roma in metropolitana e questi rubano, c'è poco da fare. E sarò anche prevenuta, però è così. Ora non mi sembra giusto, perché potrebbero darsi da fare, i tempi sono duri per tutti. Poi dicevo, quel signore che ho sentito che accusava Salvini di essere un fascista, sì, come, così come la Presidente della Camera, e loro non sono poveracci, tra virgolette, io non mi sento poveraccio, come noi. E loro non li incontrano, forse non vanno in metro. E quindi per loro parlano, sono bravi, sono buoni. Va bene, Anna, grazie. Cristian Taranto, vai. Christian. Io li incontro ogni giorno, visto che vado in metro. Cristian, Cristian. Sì, pronto, ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. Allora, volevo dire una cosa. Allora, intanto vedi che mi dispiace perché c'è gente, come la signora di prima, che purtroppo certe volte per ignoranza dà retta a persone come Salvini. Salvini fa il politico, non può fare questi slogan, lui deve dare delle soluzioni. Sgomberare con le ruspe un campo rom è una cazzata, non una soluzione. Lui pensa che dando l'ultimatum quelli spariscono dopo 60 giorni, dopo 6 mesi, quelli li ritrova lì ad affrontare le ruspe. E poi che cosa fai? Ce l'hai un piano B? No, non ce l'hai. Sì, ma allora, io non so se sia piano A, piano B, eccetera. So solo che tutti quanti sono d'accordo. Aspetta un attimo, aspetta. Vabbè. Dai, su, rispondi, dai. Forza, forza, forza, forza, forza. Policeman, policeman. Pronto? Sì, c'è Capo Fabio. Chi è? Sono Cruciani. Ciao, Cruciani. No, sta incasinato. Sta sì, lo so che è incasinato, però mi deve dare 5 minuti. 5 minuti, lo sa lui, mi deve dare 5 minuti. Lo so che è incasinato, ma mi deve dare 5 minuti. Diglielo, digli, mi deve dare 5 minuti. Che dice? Pronto? Pronto. Fabio, ciao. Sì, ciao. Eccoci, 5 minuti e ti lascio. 5 minuti, capito? Sì, Crucia, io ti chiedo solamente di capirmi in questo momento, anche perché mi stanno arrivando voci che al Ministero stanno condannando la cosa, per cui... Vabbè, al Ministero faranno quello che devono fare, quello che hai scritto è scritto. Io sì, voglio dire una cosa, quando tu hai scritto io sono uno degli 80 del settimo nucleo, io ero quella notte alla Diaz, io ci rientrerei mille e mille volte, che volevi scrivere? Che tortureresti come hanno scritto mille volte, che picchieresti mille volte? Assolutamente no, assolutamente no, infatti sono sorpreso dal clamore che sta suscitando tutta questa situazione, perché probabilmente ora mi rendo conto che era... insito solamente nelle mie intenzioni. Ma tu sei orgoglioso di essere entrato alla Diaz o no? Io sono orgoglioso di aver fatto parte del settimo nucleo, posso essere leggermente arrabbiato, anzi fortemente arrabbiato, incazzato, per quanto è successo dopo. Dopo l'evolversi della faccenda, dopo l'orgoglio, restiamo sull'orgoglio del settimo nucleo. Tu sei orgoglioso di essere entrata alla Diaz, diciamo la verità. Sono se la Diaz si fosse limitata al nostro intervento, al fermo di tutti gli occupanti della Diaz. Hai picchiato qualcuno dentro la Diaz tu? Non in maniera illegale, ho solamente utilizzato. Cioè hai picchiato, ma secondo te nelle regole? No, non, picchiare non è il termine adatto. Manganellato, che hai fatto? È utilizzare i mezzi coercitivi a nostra disposizione all'interno dell'articolo dell'uso legittimo delle armi per combattere una violenza o respingere una resistenza. Ma dentro c'era aspetta, messicana, dentro c'era violenza. Dopo te lo spiega quello che ha detto il vicequestore. Dentro c'era violenza o no? Dentro la Diaz. Macelleria messicana. Sì, non ho capito, scusa. No, dentro la Diaz c'era violenza? Naturalmente non è vero quello che è stato detto ampiamente, che i ragazzi, gli occupanti dormivano, è stata fatta una forte resistenza all'interno della Diaz, ma che non giustificava poi quello che abbiamo nostro malgrado visto dopo. Cioè, secondo te sono stati altri a commettere la resistenza? Sì. Lo sconfiggere la resistenza si è limitato al fermo e al rendere inoffensiva questo tipo di violenza e radunare tutti i 93 occupanti della Diaz in quella notte nella palestra. Dopodiché, scusa, però tu mi hai detto che c'erano altre persone col fratino, no? Altrimenti non riesco a esprimere il mio concetto. All'uscita del settimo nucleo? Ma All'uscita del settimo nucleo ci sono state persone che dovevano essere preposte all'identificazione, che sono rimaste oltre un'ora all'interno della Diaz. E queste cose stanno sulle carte processuali, le ha dette Canterini, le ha dette Fournier. Cioè c'erano altre persone della polizia vestiti con i fratini, quello che è uscito fuori nei giorni scorsi e che era anche nelle carte? È quello che dice anche il giornalista del Resto del Carlino, Guadagnucci. Se voi leggete il libro... Cioè secondo te a commettere violenze sono stati soprattutto questi? Io questo non lo so, perché noi eravamo già al di fuori. Allora ragazzi, facciamo un patto, dobbiamo lasciar parlare Fabio Tortosa e post quello che voleva dire in quei post, perché altrimenti non capiamo nulla, capito Parenzo? Poi puoi dire la tua, puoi dire tutto quello che vuoi. Lasciamogli spiegare una cosa da tribunale. No, lasciamogli spiegare una cosa. Allora, siccome la polizia adesso ha avviato anche un'azione disciplinare da quello che viene fuori, secondo me quando uno esprime le proprie idee, comunque poi la polizia deciderà. La polizia deciderà quello che deve decidere. Quando siete entrati alla Diaz, Fabio, cosa è successo? Fabio? Quando siamo entrati alla Diaz è successo che noi avevamo l'ordine, prima di entrare alla Diaz, di procedere a fermo al fine dell'identificazione, che non doveva essere fatta da noi ma da altri enti, da altri uffici della polizia, di tutti gli occupanti della scuola Diaz, in quanto un appartenente alla Polizia di Stato aveva segnalato la presenza di Black Bloc del gruppo. Lo zoccolo duro dei Black Bloc che avevano impegnato le forze dell'ordine. Ma avete trovato resistenza? Come vi hanno accolto? Cioè, questa è la cosa così. Allora, innanzitutto c'era il cancello chiuso, abbiamo forzato il cancello e poi abbiamo forzato il cancello d'ingresso. È lampante che non è possibile, che non sia neanche lontanamente immaginabile che gli occupanti della scuola dormissero, e abbiamo trovato una resistenza all'interno della scuola. Già mentre eravamo di fuori dalla scuola, dalle finestre cominciavano a piovere degli oggetti. Infatti, se vedete le immagini, gli uomini del settimo nucleo coprono la testa con gli scudi. Trovata questa resistenza, il nostro obiettivo era partire dall'ultimo piano e scendendo portare tutti i fermati all'interno della palestra. Che sarà durata pochissimi minuti, neanche sei forse, tutti gli uomini del settimo nucleo sono stati comandati di uscire dalla scuola e radunarsi all'esterno. Hai visto altre persone che non della polizia, presumibilmente della polizia, che non appartenevano al vostro nucleo? Assolutamente sì, era pieno. Come erano vestiti? In borghese o al limite identificabili con i nostri fratini. Come armati? Ovviamente sì. Certo, in situazione di ordine pubblico. Quindi allora, erano altri poliziotti in borghese. Le torture secondo te sono state commesse? No, sì, questo è importante da capire. Cioè, sta dicendo che erano poliziotti Stato in borghese? Erano poliziotti in borghese, sì. Invece con divise non appartenenti ai reparti. Secondo te le violenze, oltre quelle vostre, tu dici secondo le norme di legge, cioè nel senso non le lui violenze. Quindi era uno di quelli in divisa? Sì, lui, certo, il ragazzo, il signore che sta parlando, che ha fatto quel post, secondo me più che discutibile, ma insomma quello è un altro. La mia opinione non conta niente. Anzi, vergognoso, ma se la mia opinione non conta. Perché non è discutibile? Perché non è discutibile? Professionista dell'ordine pubblico. Sì. Le spiego che io entrerei mille e mille volte all'interno della scuola Diaz perché la vedo dal punto di vista operativo della tipologia di operazione che siamo stati chiamati a fare, che ribadisco essere stata ineccepibile, ma l'ineccepibilità è stata messa in discussione da una realtà processuale. Io invito tutti ad una riflessione di quanto sia realmente accaduto, che è una verità che tutti gli uomini dei reparti mobili, in particolare gli 80 del settimo nucleo, attendono da 15 anni. Benissimo, le torture, siccome Strasburgo ha detto che c'è stata tortura, con riguardo a un caso eccetera, secondo te sono state commesse, sì o no? Io non glielo so dire, so che il numero dei refertati è assolutamente incongruo con l'operazione svolta dagli uomini del settimo nucleo. Cioè sono di più quelli refertati, in senso tecnico significa diciamo portati in ospedale, assolutamente. Cioè, io ho partecipato a questo blitz e all'interno di questo blitz quante persone hai colpito? Eh? Quante persone hai tra virgolette colpito, diciamo? Ma io io ero un cellista, per cui non ho colpito nessuno, perché ero deputato al lancio di eventuale lancio di granate lacrimogene, per cui non ho colpito nessuno. Ma dentro ho assistito a tutta l'operazione da parte del nucleo, e l'operazione da parte del nucleo, come è stato già ribadito negli atti processuali. Scusi, l'ordine era di lanciare lacrimogeni anche dentro la scuola, in uno spazio chiuso, dentro una scuola? No, aspetta, cosa interessa? Infatti, ecco, perché però siamo dotati per... Avendo, diciamo, un nonno che è stato questore in polizia, non mi risulta che ci sia. Insomma, il numero di quelli, refertati, il numero di quelli refertati è inferiore, diciamo, del settimo nucleo, inferiore poi a quelli che sono stati feriti. Sì, ma non so neanche la tipologia del referto, perché se lì le carte, noi abbiamo appreso le carte processuali perché non abbiamo visto, avuto visione diretta, se lì si parla di braccia rotte, costole rotte, teste ammaccate, non è congrua questa attività con il semplice fermo e accompagnamento che possa essere anche brusco, ma non è congruo. Cioè, quelli del settimo nucleo non hanno spaccato teste, non hanno tirato manganellate, lei dice? No, ci saranno state sicuramente, ma non tali da procurare le ferite che poi abbiamo letto sulle atti processuali. Cioè, se ci sono, lei dice, se ci sono state quelle, io aggiungo ci sono state, perché sono state, certo sono state. Ci sono state, non sono state commesse da noi. No, ed è per questo che tu hai fatto quel posto. Le mie parole, ed è per questo che io lo rifarei. Che hai detto ci hanno inculato? Che hai detto? Hai scritto ci hanno inculato? Sì. Cioè, hanno inculato chi, tu dici? Il settimo nucleo? Sì, perché poi alla fine dei centinaia di operatori che erano all'interno di questa scuola, e che sono rimasti un tempo 10 volte superiore al nostro, gli unici responsabili sono quelli che erano identificabili da ordinanza di servizio. Dunque, c'è un grande mistero, tu dici, intorno alla Diaz, che sono queste persone. Sì, ma non è un mistero che è uscito oggi. Sì, lo so, è stato già detto al processo, è stato già detto dai tuoi superiori. Ecco, Parenzo, prima chiedevo una cosa sulla macelleria messicana. Tu anche spieghi. No, scusami. Aspetta. Dico in 30 secondi. La definizione macelleria messicana di Fournier. Ma questo, l'angelo, vice questore, secondo che lui usò l'espressione secondo macelleria te cosa intendeva, messicana. Fabio. E anche questa è stata distorta. Perché? In questo momento sono portato a prendere le difese e a chiarire anche la posizione di allora del vicequestore Fournier. Fournier dice: al nostro ingresso abbiamo trovato scene da macelleria. Quando messicana. Siamo entrati ho visto scene da macelleria messicana, sì. Quando ho dovuto fermare dei poliziotti, dice. Infatti, durante l'attività processuale, questa cosa è stata: i mostri li abbiamo trovati, e sono gli uomini del settimo nucleo. E adesso abbiamo anche il loro accusatore, che è il loro capo pentito. Vabbè, lui ha detto che ha dovuto fermare dei poliziotti anche. Ha detto, per l'esattezza: arriviate al piano dell'istituto, ho trovato in atto delle colluttazioni. Sì, lui dice non i nostri. Lui dice non i nostri. Due con cintura bianca e altri in borghese stavano infierendo su manifestanti inermi a terra, sembrava perfetto. Una macelleria messicana, questo perfetto. È un virgolettato estratto dal processo, per cui Fournier sta dicendo che gli uomini del settimo nucleo tu volevi difendere il settimo nucleo, tu sostanzialmente con i post che hai scritto vuoi difendere il settimo nucleo, questa è la però tu hai scritto la realtà operativa, però scusami, tu non hai scritto solo questo, hai scritto anche tipo su Giuliani è una merda che spero faccia schifo anche ai vermi sottoterra, questo hai scritto. Perché se gli uomini del settimo nucleo ad oggi debbano essere colpevolizzati per quello che hanno fatto, ma non hanno fatto, mentre da cittadino italiano, prima che da poliziotto, debbo assistere all'intitolazione di un'aula della Camera a Carlo Giuliani, forse esce fuori un po' di pancia. E quella è la cosa della quale mi scuso. Ma lei è un uomo. Cioè, ti scusi con la famiglia Giuliani di questa cosa qua? È una merda che spero faccia schifo anche avermi. Di questo mi posso scusare. Mentre della mia prima dichiarazione sono portato a fare un chiarimento di cosa intendessi, di quest'altra. Senti, però hai detto dice Tortosa che quando indossa. Scusi, ma questo è importante. Non c'è distinzione tra il Tortosa di Facebook e quello che indossa ogni mattina gloriosamente la divisa della polizia. Perché io, che sono un cittadino di questo Stato, devo fidarmi di Fabio Tortosa. E ora, francamente, mi fido molto poco. Mi fido della polizia al 100%, perché mi creda, davvero. Sto sempre dalla parte della polizia e ho avuto un nonno che è stato anche questore. Ma in questo caso, da giornalista e da cittadino, io non mi fido di Tortosa. Tortosa. Ho paura di Tortosa, perché lei è lo stesso che domani mattina, te lo sto spiegando con passione, ma lo sto spiegando a lui più che altro, perché io sono un cittadino di questo paese. Lei ha scritto delle cose durissime, ma lei è la stessa persona che domani indosserà una divisa e non può dire una merda che spero faccia schifo, muoia sottoterra e lo stesso rientrerei 50.000 volte alla Diaz. Io mi devo fidare di lei, perché lei indossa una divisa dello Stato. Fai rispondere, Fabio. Fai rispondere, cazzo, però. Fabio, sì, pronto. Dimmi, rispondi a questa cosa di Parenzo. Questa no, cosa, posso, dire solamente, che deve tenere anche in considerazione quello che abbiamo passato noi in 15 anni e che ancora sembra non finire, che da lunga sembra non finire mai. Ma perché dovrei fidarmi di lei Fabio, ancora? Scusa, no, questo voglio capire. Sì, ho capito, fermo un attimo, tu hai perché? Scritto anche un'altra cosa. Quello che volevamo era contrapporci con forza, con giovane vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi aveva impunemente dichiarato guerra all'Italia. Certo, cioè, perché io cameratesco. Aspetta, dimmi. Sì? Dimmi Fabio, dimmi. Beh, perché noi praticamente siamo stati addestrati lungamente e duramente, per cui eravamo un gruppo che era stato chiamato ad un'attività importantissima come quella della salvaguardia della zona rossa del G8 di Genova e per cui ribadisco che si era formato tra di noi uno spirito quasi... non è una frase fatta di dirlo di sacrificio. Sì, però dà l'idea che tu sei una persona molto di destra, cioè sei praticamente, dimmi la verità, sei un po' fascista o no? No. No, di destra nemmeno? Perché? No, ma mica è un delitto. Guardi, le ultime elezioni non ho votato neanche a destra. Che hai votato? Ho votato PD. Hai votato PD alle ultime elezioni? Sì, sono stato... alle europee hai votato PD. Ma questo non vuol dire niente. No, ma non vuol dire niente, certo. Non ho capito, cioè, tu dici, secondo te, i responsabili di quello che è successo a Genova, chi sono? Probabilmente non lo sapremo mai. No, al di là della Diaz, dei casini di Genova, in primis, chi sono? Secondo me è stata una concausa di fattori, nel senso si voleva... facendo un discorso sui massimi sistemi si voleva puntare più alle violenze di piazza che alle tematiche stesse del meeting. Cioè, ma sono stati quelli che sono venuti a Genova a devastare la città i responsabili in primis, oppure dietro c'è stata una regia politica per far succedere il casino, come molti hanno detto? Non sono così al di dentro di questi ingranaggi per poterle dare. Tu però in questi post parli anche di zeccacce, parli anche siete zecche, ci odiate, cioè usi un linguaggio molto... Se lei facesse il mio stesso lavoro respirerebbe odio continuamente contro i poliziotti che sono entrati alla Diaz, si dice. No, contro chiunque indossi una divisa e si trovi all'interno di una manifestazione, che sia essa politica, che sia essa sportiva. Ma lei non deve odiare, però, Tortosa. No, Tortosa io non odio. No, però questo le quello voglio che dire. Esce dai post è un po' no, di odio, ma esatto, in 30 secondi le voglio dire odio che Tortosa... che si subisce e che si, come dire, e che si in qualche modo poi si trasferisce anche agli altri, cioè che voi subite probabilmente da parte di qualcuno, non so chi, cioè tu fai anche i nomi di alcuni commentatori politici dicendo peste e corna di queste persone qua, vi prego di non dare retta a squalloni, no, come scusa, Travaglio, Vauro, Santoro, eccetera eccetera. Perché io non posso pensare che in una democrazia occidentale ci sia chi ha dichiarato guerra all'Italia, cioè con una conferenza stampa, sì. E che perciò chi ha dichiarato guerra all'Italia, per esempio? Chi ha dichiarato guerra all'Italia? Casarini. Ah, Casarini. Nei tempi, nei giorni precedenti al G8, ha fatto una conferenza stampa dove ha detto che avrebbe dichiarato guerra alle forze dell'ordine e che loro avrebbero violato la zona rossa, e un altro paese sarebbe stato immediatamente arrestato. E perché te la pigli col PM Zucca, pure uno di quelli che ha fatto il processo alla cosa? Beh, perché, come le dicevo prima, l'evidenza processuale non è stata, cioè le dichiarazioni dei nostri capi non sono state assolutamente prese in considerazione. Abbiamo subito una condanna, diciamo corporatisticamente abbiamo subito una condanna perché i nostri dirigenti sono stati condannati per questo. Però, Tortosa, torno alla paura che ho io in 40 secondi. Lei è stato, come dire, educato all'uso responsabile della forza, questo è il punto. Mi spaventa che la gente Tortosa, educato a questo, su Facebook dà un'altra immagine di sé. Ha capito perché io, cittadino, giornalista, quello che cazzo vuole, Parenzo, ho paura? Sì, ho capito benissimo, ma... Perché non devo avere paura? Io no, non devo avere paura, perché io comunque sia nel momento in cui sono chiamato al mio lavoro sono a piena conoscenza di quali sono le leggi che legittimano la E allora voglio il numero di matricola strada. Messo sulle divise dei poliziotti, come fosse il numero d'Italia. Sei d'accordo? Il numero Io di matricola. Sono d'accordo, ma sono d'accordissimo, non d'accordo. Questa è una notizia. Ma vorrei che prima di questo ci fosse una più chiara determinazione delle regole di ingaggio nelle situazioni di ordine pubblico a situazione però è una notizia, cosa questo. Dobbiamo fare e cosa non giusto. Dobbiamo fare tu bravo dici. Giusto cioè, quando ti dicono carica quando ti dicono caricate quando bravo, ha ragione forse una violenza o vincere una resistenza mi sembra una terminologia abbastanza lasca e che ha ragione. Preveda mille interpretazioni però è d'accordo col riconoscimento col numero sulla guarda questo è importante quel che lei sta dicendo io sono oggi, contrario no vabbè ma d'accordo sì tu io assolutamente le dirò di più che noi stiamo usando le body worn camera cioè due sì, le camere, poliziotti sì. in ogni sì. squadra di ordine pubblico è dotata di telecamera inserita nel jacket e anche questa è una ottima soluzione perché permette sì. oltre la manifestazione di andare a rivedere tutto quanto le scene che sia di garanzia anche dell'operato dei poliziotti. Ma è vero che ho capito benissimo. Tu è vero che tu hai tatuato qualcosa sul petto che riguarda il tuo nucleo? Sì. Che c'hai su? Il simbolo del settimo nucleo, che era uno scudo con il settimo umano all'interno. Comunque, ma è possibile per i poliziotti avere tatuaggi? Perché per ma i militari perché certo non si può avere valore no, tatuaggi? Perché, ma chi certo? Non sai un cazzo. Per i militari non è possibile avere nessun tipo di tatuaggio per via del riconoscimento. Sta sbagliando. All'atto dell'idoneità. Vedi? All'atto dell'idoneità. Comunque, non ritiri una parola a parte questo quello che hai scritto su Giuliani? No, non è che non la ritiro. Vorrei che la stessa cassa di risonanza che ha avuto questa situazione nel interpretare le mie parole, che però è chiaro che dopo la riconosco sì. che sono mal interpretabili, ma soprattutto se si parte da una posizione preconcetta. Repubblica sta scrivendo no qui hai spiegato io qui parlo è... solamente sì. di ci rientrerei in quanto la realtà operativa che ci ha coinvolto cioè non ti devi pentire di nulla di quello che hai fatto dentro la Diaz no perché non ho commesso nessun reato. Allora, alcuni siti stanno titolando Caserma Diaz agente che partecipò al pestaggio, lo rifarei subito. Hai partecipato al pestaggio, sì o no? No. E allora querela lì, subito. Cioè, ma... quando uno scrive a gente che partecipò al pestaggio e tu dici io non ho mai partecipato a nessun pestaggio, che c'è da fare? Querelerò. No, ma io non ti voglio dare un consiglio. Se uno vedrò quello da farsi, innanzitutto adesso vedrò. Ma hai ricevuto solidarietà da parte dei tuoi colleghi o no? Ma, è ovvio, dai miei colleghi ho ricevuto solidarietà unanime, nel senso che tutti hanno capito cosa intendessi e nessuno. Nessuno che indossi una divisa può mai dare solidarietà anche a un collega che dica che interpreti quella frase come dire parteciperei e andrei a spaccare capocce. No, perché noi abbiamo spaccato capocce. Se casomai no, tu dici siccome le capocce sono state spaccate, l'ha fatto qualcun altro in borghese, ma sempre poliziotti. È sulle carte processuali. Beh no, è sulle carte processuali, beh. Sai, cioè, sì, è vero. Però chi ha scritto commentando il tuo post noi siamo torturatori con le palle piene, noi torturatori, quelli che l'hanno commentato, questi qui vanno i commentatori, mica lui risponde dei commentatori. Guardi, no, ma infatti mica gli sto dicendo anche questo. Quelle parole. È con lo spirito di corpo. Quelle parole come per dire questo è il marchio che ci hanno dato. Cioè li giustifichi No, è il marchio che ci hanno dato. Noi siamo i torturatori. Invece i torturatori sono altri, perché tortura ci fu oppure secondo te non ci fu nemmeno tortura dentro la Diaz? Questo voglio capire. Qualcuno non l'ha lo fatto so, io posso solamente io visivamente non ne posso aver avuto contezza, anche perché le garantisco che molti di noi saremmo intervenuti, compreso me. Ma ci credi alla giustizia quando certifica che c'è stata tortura? Ci credi nelle decisioni processuali o non hai fiducia? Perché sì. questo è importante. Io credo nella giustizia e potrebbe essere altrimenti. Attacchi Zucca. Però che come ho scritto ci siano due realtà, una realtà e una realtà processuale. Noi purtroppo sì. eravamo gli unici identificabili e servivano dei responsabili. Va bene, grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Yeah. Fate da parezzo. Amici miei, siamo al top. Siamo al top, Allora, caro David, ti è piaciuta la testimonianza molto, di questo poliziotto? Immagino di sì. Francesco da Teramo, 800240024, anzi no, andiamo a Genova da Mauro. Mauro. Un po' mi trovi al cellulare, che sto andando da Veltroni. Mauro, non lo sapevo, ma come sono abituato a queste cose. Veltroni, Mauro da Genova, non me ne frega nulla, zero. Cosa? Mauro da Genova. Cosa hai detto? Non ti interessa il film di Veltroni? Nulla, Mauro da Genova. Non mi interessa il film di Veltroni, che ti devo fare? Non me ne frega nulla. Brutto, ma no, ma ho grande stima, no, anche di Veltroni. Ormai rimane, ma è brutto. Ma io ho grande stima di Veltroni, ma potrà interessarmi poco del suo film, sì o no? Mauro, a te piacciono queste cose? A me no, Mauro da Genova. Molto brutto quello. E sarà brutto, ma è così. Molto, molto, molto brutto. Mauro, vai. Volgare, brutto. Vai, Mauro, dimmi, dai. Allora, voglio dire una cosa. Io quella sera ero lì alla Diaz. In qualità di cosa? In qualità nel social forum. Cioè eri dentro la Diaz? No, non ero dentro la Diaz, ti spiego. Beh, allora, perché prima dentro la Diaz, sì. Poi Enrico Ghezzi, che io lo conoscevo già per altri motivi, mi ha detto: guarda, sta arrivando la polizia e no, per farvi delle carezze ti conviene andartene. Io ho chiamato un po' di persone e ho detto: andiamocene via, perché dicono che stanno venendo con cattivi modi qua, e ci siamo allontanati. Tempo di fare 20 metri arrivano tre pullman della polizia, sono scesi giù, ci siamo tutti spaventati in modo abbastanza violento, poi siamo andati in un bar che era subito lì vicino. Dopo finita l'operazione, come dicono loro, che poi in quello spazio lì che noi sapevamo c'erano non certo black bloc, ma ragazzi stranieri che si erano stati ospitati perché il giorno prima era piovuto ed erano tutti bagnati, abbiamo visto uscire persone in sanità. Cosa racconta questo signore? Che io lo rispetto in quanto... Questo signore racconta quello che secondo lui è accaduto dentro la Diaz, sì. E altro ancora, come abbiamo ma sentito. Ma lì non ce n'erano black. In realtà non racconta nemmeno quello che è successo dentro la Diaz. Dice semplicemente... violenti, però io voglio dire... Secondo lui c'erano invece delle persone che hanno posto resistenza. Ma erano vegetariani vegani, puoi immaginarti. No, non mi nomini vegetariani e vegani, per carità! Per non carità, è garanzia di non violenza. Per carità, non mi nomini. La gente non violenta di base. La gente non, ma non è che i vegani base sono per forza non violenti, no. Mauro. Adesso, dai, adesso io adesso non lo so se tutti non sono non violenti, però voglio dire, il clima che era a Genova era per discutere sulla democrazia. Nessuno di noi non era solo per discutere. Lei sicuramente è un non violento, non ha torto un capello a nessuno, eccetera, eccetera. Ma non c'era un clima. Non è che tutte le persone che sono andate lì sono andate a discutere di democrazia. Ma queste persone. Ma non lo so, ma adesso sono passati tante anni. Ma sicuramente sono passati tanti anni, non lo so. C'è tanta gente che è andata lì a menare le mani. Questa è la realtà. Non erano alla Diaz, però non dormivano alla Diaz. Non lo so, magari c'era anche qualcuno alla Diaz, ma non mi importa, non è quello il punto. Vabbè, alla Diaz. Hai rifatto il problema. Sai, tutti quelli che erano alla Diaz, nessuno era violento. Vabbè, d'accordo. Nessuno era violento. Hai deciso tu che nessuno era violento di quelli che erano lì. Lo dicono anche. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Dentro la Diaz si sa perfettamente le associazioni che erano registrate, queste negli atti del processo. Ma no, Mauro, va bene. Allora? Si può dire qualunque cosa, ma non. Io non ho detto contrario. Che erano violenti, ho detto semplicemente che non possiamo sapere se all'interno lì non c'era qualcuno violento, ma non per dire che è giustificata la violenza dei poliziotti, sto dicendo che non sappiamo se all'interno c'era qualcuno violento. Ci sarà pure stato tra 500 persone, 1000 persone che sono dentro una scuola, no? Ci sarà anche stato, ma non per. Infatti, dicono una roba diversa, che dentro la Diaz. Allora, scusa un attimo. Sì, Mauro, dimmi. Allora, voglio dire, il comportamento violento di aggressività che c'è stato quella sera a me ha segnato tutta la vita, perché tu vai quello non c'è dubbio. Per discutere e vedi questa violenza che io Diciamo la violenza da tutte, diciamo per dirla così, da tutte e due le parti, diciamo, ma non, eh. ma non da noi. Vabbè, ma lei è stato sicuramente in pace, tranquilli, non c'era questa violenza da parte nostra. Ma chiunque poteva venire dicendo: se puoi entrare, puoi entrare, puoi vedere, puoi vedere. Assolutamente. Grazie Mauro. Maurizio dalla provincia di Biella. Maurizio. Ciao Cruciani. Dimmi, Maurizio dimmi. Camionista, ci ha sentiti grande, tempo fa per le prostitute. Vai. Senti una cosa, io volevo dirti prima di tutto una cosa. Quella giornalista che è stata sospesa per una settimana perché ha detto una parolina su Alonso. Ma te che ti devono dare l'ergastolo? con tutto quello che dici. Poi, ok, quella era una battuta. Un'altra cosa voglio dire a Parenzo. Beh, sì, una diciamo che c'è un po' di differenza. Vabbè, sì, no, no, sì, ma io io ho appoggiato la Saluzzi contro la decisione di Sky, assolutamente, e continuo ad appoggiarla al 100%. Trovo assurda quella decisione, trovo esagerata quella decisione, perché secondo me quel tweet là è un tweet chiaramente che tra l'altro non appartiene alla storia professionale della Saluzzi, che è sempre una persona pagata, eccetera, eccetera. L'ha sbroccato sulla Ferrari, si ha chiesto scusa, ma era un messaggio di una giornalista che non si occupa di Formula 1, si occupa di attualità, e indirizzata ad un singolo pilota. Ad un singolo pilota, non alla Formula 1 nel suo complesso. Era un tweet, diciamo anche di insulti, nei confronti di un singolo pilota. Se quel pilota, cioè, come dire, vuole rispondere alla Saluzzi o non vuole parlare con la Saluzzi, è libero di farlo. Ma cosa c'entra Sky, diritti, eccetera? Non c'entra nulla, zero. E se qualcuno non tiene la schiena dritta su queste cose e se ne fotte della questione del business e dei diritti, siamo messi male. Questo è il punto, siamo messi male. Se uno non può nemmeno fare un errore su Twitter, deve essere sospeso. Schiavi dei potenti. Ma no, ma non è così, schiavi dei potenti. È questione che se avesse scritto, se la signora Saluzzi avesse scritto che il circo della Formula 1 è una baracconata di milionari falliti, pezzi di merda, eccetera, eccetera, uno dice: vabbè, scusa, cara Saluzzi, tu lavori per Sky, sei un'immagine di Sky, stai mettendo in difficoltà il nostro business. Sì, se l'è presa, forse sbagliando e forse in maniera eccessiva, con un singolo pilota. Dunque non le rompete i coglioni, casomai sarà Alonso a rivalersi nei confronti della signora Saluzzi. Sky, la Formula 1 e quello che fa la Saluzzi a Sky non c'entrano niente, nulla. Questa è la realtà. Poi se Murdoch vuole proteggere a tutti i costi possibili danni al suo business, se proteggesse pure, va benissimo, però io la penso in un altro modo, perché se uno comincia così veramente non si può dire più nulla. Dai, Maurizio, dimmi. Va bene, allora senti una cosa, io volevo dire una cosa a Parenzo. Io ho passato, io adesso faccio il camionista, prima montavo i mobili per conto mio anni fa. Ho passato una settimana in un campo rom della Gattinara, un paese che è lì vicino, c'è un campo rom grande, dove sono lì, vanno e vengono. Sono andato lì perché chi era lì lo volevano mandare via, a Rom, si è comprato il terreno, si è fatto la villetta ma con le roulotte fuori, loro hanno le roulotte, la villetta è vuota, gli ho redato i mobili, mi hanno pagato i contanti. Dopo una settimana parlavamo di tutto e di più. Io ti posso dire che se gli chiedevo: ma voi state qua, state fissi, vi comprate la casa o l'affittate, ma noi non ci piace stare nelle case, noi andiamo in giro perché se andiamo in giro non paghiamo niente a nessuno. Ma i soldi, certo, ce l'abbiamo, ragazzi, mi ha pagato 20.000 euro in contanti. Per la cucina, io sono andato in fallimento perché i clienti normali non potevano pagarmi. Loro mi hanno pagato, mi hanno detto che loro vanno a rubare, le donne vanno con il monovolume vicino dove c'è tipo la San Vincenzo, che danno raccolta il mangiare, lasciano il monovolume a un chilometro, vanno lì come vedi in braccio e prendono da mangiare, sono pieni di soldi. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Segreteria telefonica della Zanzara, dopo vi do il numero, mi raccomando, chiamate anche per lasciare parole dolci, gentile, su Parenzo, per esempio. Cosa pensate di Parenzo? Ragazzi, se mandate solo insulti, se la vostra voce emette solo rutti, non li mando in onda. Per cui ditemi quello che pensate di Parenzo, delle sue idee sui Rom, sulla polizia, sugli extracomunitari, eccetera, eccetera, eccetera. Fra poco vi do il numero, ma mi raccomando, segreteria. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Al sindaco Joel Latticino, oltre ai nomadi, consiglio di non far sostare neanche i Pooh e i cugini di campagna. La sparatoria al Palazzo di Giustizia di Milano, questo Giorgio Girardiello, tanto di cappello, perché alla fine ha dimostrato: uno entra tranquillamente armato in un palazzo di giustizia, in un'aula di tribunale e fa una strage. Paese di merda! Ragazzi, quel pezzo di merda Pecoraro non sa un cazzo. Voi pensate che ci abbiamo al governo? Renzo, vatlo pianto al frac, ti e gli italiani. Perché non ti porti a casa una decina di rom e te li adotti e te le allevi? Per quanto riguarda il finanziamento ai partiti, io ci do nemmeno sto cazzo, perché sto cazzo è riservato a mia moglie, capito? Parenzo, quando si scatena contro i fascisti, è perché ne piace tanto di Barisoni, giuro. We Allora, lo sapete perché è una discarica umana. Lo sapete perché i vegani non possono mangiare i fichi? Cioè, i vegetariani, anzi, non possono mangiare i fichi. Sì, è uscita ieri. Qualche giorno fa. Il fico è uno dei frutti che più di tutti attira l'attenzione degli insetti. Essi vengono impollinati dalle vespe e al loro interno spesso e volentieri ne cresce almeno una, rimanendo bloccata al suo interno, morendo. Tuttavia, non la troverete mai intera, ma la sua carcassa dentro il fico si rompe e si disperde sotto forma di proteine, diventando parte del frutto. Ed è per questo che in teoria i signori vegetariani o vegani assolutisti estremisti non possono cibarsi nemmeno del fico se sono proprio ortodossi. Io vorrei ricordare, a proposito di vegani, quello che disse il mitologico Maurizio Bianconi, Forza Italia, il deputato, bisogna sempre ricordarlo, di Forza Italia, Bianconi. I vegetariani li posso capire perché è una cultura, ma i vegani sono proprio dei coglionazzi, perché ammazzano gli animali, perché fanno estinguere le razze, perché se un animale non serve a niente la gente non lo alleva. Ancora e allora le mucche non si può né prendere il latte né prendere il formaggio né niente, non servono a un cazzo e la gente smette di avere le mucche. Quindi il sistema per estinguere le razze e animali, i vegani l'hanno trovata là alla perfezione, cioè un rapporto completamente inutile, non sono animali di compagnia, perché le vacche non è che le puoi mettere in poltrona, cacano da tutte le parti. Allora, quando Bianconi disse questa cosa mi era sfuggito un tweet fantastico di un tale che si chiama Alessio Ranallo, il quale scrive: vegani estinguono le galline? L'unica razza inutile è il politico. Non insulti, rivolto a Bianconi. Pensi alla sua patetica vita da ciarlatano. Questo scrive un tale che si chiama Ranallo. Ma la cosa più incredibile è che Bianconi risponde. Senti come risponde Bianconi. Ranallo, razzista di merda, testa di cazzo, offendi altri, non me. Fatti riconoscere che te lo spiego a voce, che rotti in culo sei, virgola, merdoso. Signor Bianconi, va bene, parla la famiglia Cassol, che è la famiglia di quello che è stato sparato, anche se la parola è stato sparato non si dice, che è stato colpito da Stacchio, il benzinaio Stacchio, famiglia Rom. Cosa è successo? È successo che il fratello del tizio ucciso è stato anche arrestato per rapina. Parla un membro della famiglia. Però dico, dopo tutto quello che abbiamo detto e parlato, ma domani è fuori, ragazzino, è fuori ancora. C'è tutta che andate in cerca di fare. Ha fatto furtarello, basta. Non ha fatto omicidio, non ha fatto niente, ha fatto solo furtarello. Ragazzino. Beh, ha fatto un furtarello, fra pochi giorni è fuori. Altri rom sempre a Padova. Bitonci dia le case popolari. Cioè, se ci deve cacciare dei campi rom, Bitonci deve prima dare le case popolari. Questa è la filosofia, capito? Cioè, se smantella i campi rom illegali, deve prima dare le case popolari. Cioè, questo. Non sento niente. Dia le case popolari, Bitonci. Vorrei essere una casa popolare. Non va bene, ma va bene anche qui che stiamo. Che noi non vogliamo avere aiuto da Bitonci. Vi vuole qualcosa andare? Cosa dobbiamo dare? Andare a vivere sulle strade? Il numero della segreteria telefonica 02-46-52-40-10, 02-46-52-40-10, ve lo ripeto così ve lo timbrate e ve lo segnate, 02-46-52-40-10. Poi se volete raccontare anche le storie del vostro matrimonio, delle vostre relazioni, con chi andate a letto, se vostra moglie vi tradisce, volete denunziare cose gravissime, potete pure farlo. Luigi, provincia di Padova, vai. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera Cruciani e buonasera Parente. Sì, cose, sì Luigi, però tu sei in viva voce o sei con l'auricolare o cose di questo tipo, dai. Mi senti adesso? Sì, adesso meglio, vai. Allora, intanto se si vuole non far venire qui le persone che vengono dall'Africa, basterebbe mandare quelli del gruppo Teseo Tesei, gli incursori della Marina, ad affondargli i battelli, primo. Dall'altra parte, sì. Come hanno fatto in Albania. Secondo, io avevo solo una cosa da dire nei riguardi del signor Parenzo. Ma lui si è mai trovato davanti un rom? Ma immagino di sì, più volte. Io penso di no, perché se no non parlerebbe così. Punto non, e poi il signor Parenzo, che è lì che pontifica sempre, io sono con il maresciallo che della Diaz, perché quella gente lì, poveretti, hanno fatto quello che hanno fatto e che lui ha spiegato, molto probabilmente qualche un altro l'avrà fatto. Ma il signor Parenzo non può permettersi di saltare addosso sempre a tutti quelli che parlano. Ognuno, lui c'ha sempre da dire di tutti. Vabbè, ho capito, ma questo piace... avere senso, avere qualcosa da dire alle persone non è che sia una cosa negativa, Luigi, eh? Cioè, no, non è negativo, per l'amor di Dio. Stava criticando, sempre... stava criticando quello, adesso non è che devo difendere Parenzo, si difende bene da solo. Stava con criticando quel sorriso che lui dice, che con quel si sente il sorriso, come se lui è lì a pontificare. Si metta qualche volta nei panni degli altri. Vabbè, ma che vuol dire? Non è che si deve... Ma che vuol dire mettersi nelle panni degli altri? Luigi, quello fa il poliziotto e Parenzo criticava alcune cose scritte da quel poliziotto perché gli sembravano inadatte al fatto che... Ha fatto bene il poliziotto a scriverle quelle cose lì, vabbè, secondo me. Secondo lei ha fatto bene, ma infatti noi glielo lasciamo dire. Ha fatto bene, punto. Secondo, basta, non ho altro da dire, volevo semplicemente dire tra queste tre cose qua. Mandiamo gli uomini della Marina ad affondare i battelli, non vengono più qua. Signor Parenzo, ci trovi qualche rom davanti, poi vedo se parla ancora bene dei rom. Noi siamo italiani e dobbiamo ma che c'entra? Pure quelli sono italiani in gran parte, eh? No, meno quelli male. Non sono italiani. Beh, quelli sì. È gente che manda i bambini a rubare. Quello è un'altra cosa. Manda i bambini a rubare chi manda i bambini a rubare a queste persone va tolta immediatamente la patria potestà, immediatamente, cosa che purtroppo non accade. Siamo italiani, noi siamo dei buonisti, quello sicuro, sicuro. La gente mandare a pedate nel sedere fuori. Vabbè, d'accordo, adesso oggi pedate nel sedere fuori poi, dipende. Per l'amor di Dio, voi continuate pure così che vi sento sempre molto volentieri. Va bene, ciao Luigi. Gennaro, Roma, vai. Gennaro, no, Paolo Modena, vai. Richiamatemi Gennaro, vai. Paolo, vai. Paolo, no, Gelsomino, Roma. Pronto, buonasera. Dimmi. Io volevo parlare appunto di quel signore della Diaz. Sì. Che si vergognasse a dirlo. Si doveva solo che vergognare a far parlare. Perché? Allora, prima non ho capito, non ho capito perché uno pubblico, sì, e non ordine pubblico. Vabbè, ma quello è un poliziotto, è un soldato semplice, perché non è che lui dice di essere un uomo come base, doveva andare addosso ai playbocchi il giorno. Ma guardi che ci è andato, i ragazzini che dormivano. Guardi che ci è andato pure addosso ai Black Bloc, cioè, no, non mi pare, perché hanno fatto il cattivo tempo. Primo, si deve vergognare a scrivere quello solamente perché loro vogliono anche la licenza di fare quello che gli pare. Ma ho capito, ma visto che ha detto un paese democratico e civile, lui non sa niente della civiltà, perché è un poliziotto, deve dare esempio, non deve fare il giustiziere personale. Però scusami, quindi si vergognasse, si deve vergognare. Scusami, e si stia zitto, perché l'hanno detto 50 giudici e l'Europa, che ha fatto schifo, ha fatto disordine pubblico, non ordine pubblico. Sì, Gelsomino, ma lei deve stare calmo. Il signor Fabio Tortosa verrà poi giudicato dal punto di vista disciplinare? Si è arrampicato sugli specchi, si è letteralmente arrampicato. Va bene, specchi. D'accordo, io sto dicendo semplicemente che sarà la polizia a giudicare se queste cose che sono state scritte su Facebook... Ma che bisogno c'era di fare questa uscita? Se ne poteva stare benissimo zitto, perché è stato un fiasco l'ordine pubblico di Genova. Se lo ricordasse, vergognare. Ma guarda che non credo che la pensi diversamente, anzi, secondo me come è stato organizzato l'ordine pubblico a Genova, anche lui lo sa che è stato un disastro. Lui stava difendendo... E allora adesso che bisogno c'era? Ma in Italia è proibita, fa così shock questa cosa. Io spero che lo facciano dalla polizia, perché io quando c'è un poliziotto, sì, un vero poliziotto nella divisa, mi commuovo, sì, ma quando c'è un testa di rapa, vabbè, non ho capito, ho capito Gelsomino. Eliana, Genova. Sì, pronto? Dimmi, dai. Allora, io sono invece totalmente solidale con il poliziotto. Sì. Ho vissuto quei giorni del G8, in particolare il giorno in cui è successo tutto quel caos. Hanno messo a ferro e fuoco la città, hanno distrutto di tutto e di più. E mi domando, la gente, quella come me, come abbia potuto ancora. Sì, non... però sono due cose diverse. Come esatto. Non abbia potuto ancora? No, nel senso, testimoniare il fatto che comunque la città era stata veramente massacrata e questa gente che si professa assolutamente pacifica, eccetera, eccetera, io non lo so dove fosse, però invece c'era prevalentemente gente non quella, pacifica. Quella che si è notata, chiaramente, se uno devasta si nota di più rispetto a uno che fa una manifestazione pacifica, su questo non c'è dubbio, però c'è sicuramente, ci sono state un sacco di persone che sono andate a Genova e che non hanno sfasciato macchine, non hanno fatto nulla, quelle ci sono state. Al di là di questo, scusami tanto, una cosa importantissima invece su Carlo Giuliani. Allora, io lavoro esattamente a 10 metri di distanza dove questo caro ragazzo per mesi e mesi stazionava a chiedere l'elemosina. Vabbè, questo non è un crimine. Gli altri, e i genitori di questo signore, di questo ragazzo, non se ne occupavano minimamente. Va bene. Evidentemente. Vabbè, Eliana, questo non lo so. Ognuno nella vita può anche chiedere l'elemosina, non è necessario, cioè non è che è obbligato a fare altre cose. Ciao, ci sentiamo domani 18:30. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Radio 24. La passione si sente.